Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Condannato a 15 anni e 7 mesi il medico Vincenzo Campanile, secondo la Corte d'Assise di Trieste, colpevole della morte di 9 pazienti. L'accusa aveva chiesto una condanna più pesante. Saranno completati nel 2026 i lavori del nuovo polo ospedaliero di Cattinara. La regione si prepara a stanziare ulteriori 60 milioni di euro per l'opera. Pronti allo sciopero in Asugi, sindacati Nursind e UIL FPL che chiedono un riequilibrio nella ripartizione degli incarichi fra area giuliana e isontina. Un risarcimento superiore al milione fissato dal Tribunale di Trieste a favore dei familiari di un portuale morto per mesotelioma. Polemiche in Consiglio regionale per 2 emendamenti della Giunta che stanziano 112 milioni per opere da realizzare in vari comuni. L'opposizione lascia l'aula prima del voto. Il G20 delle spiagge italiane propone l'istituzione dello status di città balneare. Fra i promotori dell'iniziativa c'è anche il comune di Lignano Sabbiadoro. Oggi è la giornata mondiale contro il cancro. L'AIRC che promuove nei supermercati l'iniziativa delle arance rosse per la ricerca. Le 7:19 minuti e 20 secondi, buona giornata da Maria Spezia e da Paolo Roncoletta. Anzitutto uno sguardo al tempo, il cielo si presenta generalmente poco nuvoloso sulla regione, le temperature rilevate alle 7, a Trieste abbiamo 4 gradi e 6 decimi, a Udine 0 gradi, 5 decimi di grado sopra lo zero a Gorizia, 0 gradi anche a Pordenone, 7 gradi a Tolmezzo, quasi 8 Forni di Sopra, 4,5 a Tarvisio, 4 gradi a Sappada, meno 2 gradi e mezzo sul Lussari, meno 1 grado sullo Zoncolan. Sulla costa abbiamo 5 gradi a Lignano e Grado. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi: su pianure costa cielo da sereno, poco nuvoloso con foschie e nebbie di prima mattina, sui monti in genere poco nuvoloso, in montagna al mattino soffieranno venti forti da nord-ovest, anche molto forti in quota, in calo dal pomeriggio, sarà comunque possibile qualche raffica anche a fondovalle, sulla costa dal pomeriggio soffierà buona moderata. Colpevole dei 9 omicidi contestati e di falso in atto pubblico è quanto ha stabilito la Corte d'Assise di Trieste al termine del processo di primo grado per Vincenzo Campanile, il medico monfalconese condannato a 15 anni e 7 mesi. La sentenza è arrivata ieri sera. Vincenzo Campanile, il medico anestesista monfalconese, accusato di omicidio volontario nei confronti di 9 anziani tra 2014 e 2018, è stato condannato. La sentenza è di 15 anni e 7 mesi e comprende la condanna per tutti i 9 omicidi e per tutti i falsi in atto pubblico, tranne 2, considerati prescritti. È stato anche condannato al risarcimento delle parti civili, oltre al pagamento di 80.000 euro per le spese legali in solido con la Sugi, presso cui lavorava. È stato interdetto poi dallo svolgimento della professione medica per 5 anni. Nessun commento da parte degli avvocati di Campanile, che era presente in aula. Si chiude così il primo capitolo, si vedrà se ci sarà un ricorso in appello, di una vicenda complessa e durata 5 anni. Campanile è stato considerato responsabile di aver volutamente procurato la morte a 9 anziani, somministrando loro un forte sedativo, il Propofol. L'indagine si è aperta con la morte nel 2018 della signora Mirella Michelazzi, 81enne, ricoverata in una casa di cura di Trieste, cui Campanile aveva iniettato il farmaco. Da lì è partita la segnalazione dei colleghi e l'azienda sanitaria ha avviato le ricerche. Andando a ritroso sono emersi altri 8 casi di pazienti che erano stati trattati da Campanile e che presentavano situazioni simili. Nel corso delle indagini 5 corpi sono stati riesumati per essere esaminati. Campanile ha dovuto rispondere anche di falso perché non ha riportato negli atti di aver utilizzato il farmaco. Ora la sentenza, una pena inferiore rispetto a quanto chiesto dall'accusa, che ammontava più di 25 anni, ma che riconosceva tra le attenuanti il fatto di aver agito senza odio e per motivi ideologici. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: incidente stradale poco prima di mezzanotte a Porcia che ha causato gravi ferite a un 25enne che viaggiava in una delle 2 auto che si sono scontrate in Corso Italia. Ancora non note le cause dell'accaduto. Il giovane incastrato nell'abitacolo è stato liberato dopo 1 ora di intervento dei vigili del fuoco e dell'equipe sanitaria. Ora si trova in ospedale a Udine. Meno serie le ferite riportate dagli altri passeggeri. La regione e l'impresa costruttrice hanno fatto il punto sui lavori di trasformazione del polo ospedaliero di Cattinara. Ai 200 milioni già stanziati se ne dovranno aggiungere altri, almeno 60. L'obiettivo è la conclusione dell'opera nel 2026. Il nuovo ospedale di Cattinara avanza non una ristrutturazione ma la creazione di un polo capace di dare risposte alle esigenze della sanità moderna. Un nuovo Covid Hospital, la nuova sede dell'ospedale materno-infantile Burlo Garofalo, è una terza torre di collegamento fra le due esistenti, tale da creare un corpo unico, ma anche laboratori e parcheggi da 350 e 330 posti come servizi accessori. Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia. Chiamiamo di non avere nuovo ospedale, di tenere tutto bloccato e di non vedere un futuro alla risposta sanitaria di Asuggi e di Trieste. Oggi invece finalmente possiamo dire che il cantiere, anzi già da un po' di tempo sta operando, con date certe, con finanziamenti altrettanto certi. Dopo l'uscita di scena della prima ditta costruttrice, la scommessa raccolta dalla Rizzani Decker prevede un nuovo cronoprogramma suddiviso in tre fasi, la prima in corso con la realizzazione del parcheggio sud-ovest e la seconda, anch'essa avviata, che prevede la terza torre e il burlo che saranno completati a fine 2026. Marco Decker, presidente Rizzani Decker. La realizzazione di questo nuovo padiglione, Covid Hospital così chiamato, è stato proprio la chiave di volta per riuscire ad ottenere da un lato una struttura che fosse adeguata alle nuove esigenze con cui ci dobbiamo confrontare e dall'altra soprattutto consentisse di rifasizzare l'intero intervento. Alla fine saranno disponibili anche 50 posti letto di terapia intensiva e semintensiva e 3.000 metri quadrati di nuove degenze e ambulatori. Riccardo Riccardi, assessore regionale alla sanità. Siamo a una dotazione finanziaria di 200 milioni. Ne saranno necessari altrimenti almeno altri 60-70 che io conto di definire ovviamente prima della fine della legislatura. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Due sindacati del comparto sanità dell'azienda sanitaria Giuliano Esontina sono sul piede di guerra, chiedono una equa ripartizione degli incarichi tra Area Giuliana e Esontina e minacciano lo sciopero. Acqua agitata all'azienda sanitaria universitaria Giuliano Esontina. La UIL FPL e il NURSID, due dei sindacati del comparto sanità, hanno ricevuto il mandato dall'Assemblea dei lavoratori di proclamare lo stato di agitazione con successivo sciopero generale. Chiedono una modifica dell'organigramma degli incarichi per il comparto e per la dirigenza e una equa ripartizione tra le due aree. Prevedono inoltre anche nuovi incarichi di funzione sanitaria per la parte esontina e l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per progetti qualitativi. Si riscontra, si legge nella nota diffusa dai due sindacati, una differenza inaccettabile tra l'area esontina e quella giuliana nell'assegnazione sia degli incarichi di funzione di parte tecnica amministrativa che della parte relativa alla dirigenza amministrativa. Una differenza che svilisce tutta l'area esontina, si legge ancora, che va a togliere dignità a tutto il territorio e a tutta la popolazione dell'area. A questo si aggiunge che l'azienda ha fatto una proposta di utilizzo delle risorse per pagare unicamente le ore del personale, senza valutare progetti qualitativi che devono essere riconosciuti per valorizzare il personale stanco, stremato e tra i meno pagati di tutta Europa. Come UIL, FPL e NURSID, si legge infine, abbiamo infatti richiesto a livello regionale e aziendale che le risorse aggiuntive regionali vengono utilizzate unicamente per progetti qualitativi e che le eccedenze orarie prodotte vengano pagate con il bilancio. Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo di un'altra vicenda giudiziaria. Il Tribunale di Trieste ha stabilito un indennizzo superiore al milione per i familiari di un lavoratore portuale esposto all'amianto. Questo era un mio collega che ho conosciuto per tanti anni, che ha lavorato 30 anni in porto, una persona molto attiva dal punto di vista sociale anche. E lui, le sue mansioni erano quello di manovratore carri ferroviari. Così l'avvocato Fulvio Vida ricorda i tempi in cui anche lui era operaio al porto di Trieste e ora invece ha difeso in aula gli interessi del suo ex collega manovratore ferroviario. Racconta. Arrivava il vagone vuoto, lui lo fermava con dei lunghi pali, i facchini caricavano i sacchi di amianto, poi arrivava un altro vagone. È morto a 74 anni di mesotelioma, aveva 8 milioni di corpuscoli di amianto nei polmoni, accumulati lavorando per l'ex ente autonomo del porto di Trieste. La sua famiglia ha portato avanti la causa civile al Tribunale del Lavoro di Trieste, che nel giro di un anno ha condannato l'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale al risarcimento record di 1.030.000 euro. Si sono modificate le tabelle risarcitorie da parte del Tribunale di Milano, che è quello che fa da capofila in questo tipo di controversie, e sono aumentati i riconoscimenti per i congiunti che agiscono iure proprio per quanto riguarda il danno sofferto per la perdita del lavoratore. Dalla sentenza milionaria l'ambulatorio del dottor Paolo Barbina si è riempito di pazienti per i controlli. Il direttore del Centro Unico Regionale per l'Amianto ricorda però che meno del 50% degli ex operai a rischio si fa visitare, forse per paura di ricevere la diagnosi di malattia professionale, per la quale però l'INAIL eroga un assegno mensile di 1.800 euro reversibili in caso di decesso. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo le notizie diffuse dal sindacato USB sul possibile transito nel porto di Monfalcone di mezzi militari e armamenti diretti verso una destinazione ignota, alcuni rappresentanti del sindacato hanno incontrato i vertici dell'autorità portuale, che ha ribadito non c'è stato alcun transito di mezzi armati o di esplosivi, riconfermando l'applicazione dei protocolli già in vigore su questo tema che impediscono tali transiti. In particolare, nessun lavoratore degli scali sarà coinvolto in movimentazione di mezzi laddove siano di diretta competenza dell'esercito italiano, come nel caso della nave Severin. L'autorità ha richiamato il fatto di non essere competente su eventuali informative che coinvolgono spostamenti di mezzi militari della difesa. Per USB il confronto continuerà con le prefetture e le capitanerie di porto per la corretta definizione di un protocollo a sanare ogni possibile fonte di conflitto. Approvato ieri sera in Consiglio regionale il disegno di legge sul commercio a favore 21 voti della maggioranza di centrodestra, astenute le opposizioni. È una legge cosiddetta di manutenzione che va nella direzione della semplificazione e della sburocratizzazione. In mattinata invece aveva suscitato polemiche l'approvazione di un disegno di legge riguardante autonomie locali e funzione pubblica. Il dibattito si è acceso su due emendamenti di giunta con lo stanziamento di 112 milioni, opere da realizzare in vari comuni e che saranno gestite tramite un confronto diretto tra gli enti locali e la giunta. Tra gli interventi previsti ci sono 2 milioni di euro per lo sviluppo turistico di Monfalcone e la stessa cifra destinata a Palazzolo dello Stella per il Museo di Archeologia Fluviale. Le opposizioni non hanno partecipato al voto, lasciando a presidio il consigliere Honsel in segno di dissenso nei confronti della giunta, che dicono ha portato il provvedimento in aula senza un confronto in commissione. La giunta ha replicato: erano fondi già stanziati e non inseriti in finanziaria per ragioni tecniche. La giunta regionale ha approvato le linee guida del bonus psicologo, per la quale lo scorso anno sono state presentate oltre 1.300 domande. È l'ansia la ragione principale per cui i ragazzi chiedono sostegno psicologico. Un'altra delibera ha consentito la concessione di contributi pubblici alle imprese in settori diversi da quello dell'agricoltura e della pesca fino a fine anno. Un regime reso possibile a livello europeo dalle deroghe seguite alla crisi economica innescata dal conflitto in Ucraina. Una terza delibera prevede contributi ai comuni per abbattere le barriere architettoniche. Due appuntamenti politici. Inizia da Prato Carnico il percorso partecipato della coalizione a sostegno di Massimo Morettuzzo, candidato alla presidenza del Friuli Venezia Giulia. Nell'auditorium comunale della frazione di Pieria ci sarà un incontro di ascolto e confronto con gli elettori. Inizia alle 15.30. Alberto Felice De Toni, candidato sindaco di Udine per una coalizione di centrosinistra, parlerà di riqualificazione dell'area ex Safau. Si terrà a Palazzo Antonini a partire dalle 10. Federazione del Sociale di USB Trieste ha raccolto l'appello nazionale Uniti per il Reddito a favore del reddito di cittadinanza, considerato argine alla povertà che ha permesso a circa 1 milione di persone di sfuggire all'indigenza. Nel contempo la federazione considera l'ostilità all'introduzione di un salario minimo per legge e l'eliminazione dei sostegni all'affitto come un attacco alle condizioni generali di vita per una parte molto ampia della nostra società. Per questo motivo la federazione con il Movimento 5 Stelle, adesso Trieste, Friday for Future e altri soggetti politici e dell'associazionismo locale hanno organizzato una mobilitazione a difesa del reddito di cittadinanza che si terrà a Trieste in Campo San Giacomo alle 10.30. È stato definito G20 delle spiagge italiane, l'iniziativa a promozione di un iter di legge che istituisca lo status di città balneare. Tra le 26 località di diverse regioni, tra cui Sardegna, Sicilia, Toscana e Puglia, tra le coinvolte c'è anche Lignano, Sabbia d'Oro. Il progetto è stato avanzato nel corso del raduno nazionale delle destinazioni balneari che registrano almeno 1 milione di presenze turistiche. Abbiamo intervistato la sindaca di Lignano, Laura Giorgi, per chiederle in che modo lo status di città balneare potrebbe intervenire nella risoluzione delle problematiche locali. Le città balneari hanno la problematica che vengono considerate dalle normative in base al numero di residenti e non alle effettive esigenze che hanno e quindi a tutto il turismo di cui si fanno carico nell'arco dei mesi estivi. Passiamo, nel caso di Lignano, da 7.000 residenti o piuttosto che altre città balneari, diciamo entro i 15.000 residenti, anche a 200.000 presenze giornaliere. Quindi le esigenze sono differenti ma importanti per quel che riguarda vari settori, sia sotto un profilo amministrativo che di risorse, per quel che riguarda il tema della sicurezza, per quel che riguarda la sanità. Anche il demanio, i comuni si trovano a dover gestire assieme alle regioni o assieme allo Stato comunque dei tratti di costa e la normativa attualmente fa comunque riferimento ai residenti e non alle effettive esigenze delle città balneari. Questo è un problema che accomuna tutte le città balneari d'Italia. 7:34 minuti e 5 secondi, cristianesimo in Ucraina tra vecchie barriere e nuovi ponti. Il titolo della conferenza che verrà condotta da Adriano Dell'Asta, slavista dell'Università Cattolica di Milano e già direttore emerito dell'Istituto di Cultura a Mosca. L'appuntamento organizzato dall'Associazione Norberto Bobbio sarà accessibile anche solo online al sito dell'Associazione a partire dalle 10. Ricorre oggi la giornata mondiale contro il cancro, indetta nel 2000 dall'Unione Internazionale a contrasto del cancro. Per l'occasione la Fondazione AIRC rilancia la sfida al cancro attraverso la prevenzione con le arance rosse per la ricerca, distribuite nei supermercati di oltre 50 insegne della grande distribuzione e della distribuzione organizzata. Per ogni confezione di arance distribuite, AIRC riceverà 50 centesimi per sostenere il lavoro dei ricercatori. In Italia lo scorso anno i nuovi casi di tumore diagnosticati erano in aumento rispetto all'anno precedente. Ne abbiamo parlato con Luigino Dalmaso, dirigente statistico del CRO di Aviano, a cui abbiamo chiesto un quadro dell'incidenza dei tumori in regione. Nella regione Friuli Venezia Giulia i dati più recenti di cui disponiamo del registro tumori che copre tutta le malattie che si sono verificate nella nostra popolazione nel 2020 ci dicono che sono circa 4.000 gli uomini a cui è stata diagnosticata la malattia in quell'anno e 3.900 sono le donne. I tumori più frequenti nella nostra regione sono, come anche nel resto d'Italia, i tumori della prostata, diagnosticati negli quasi 900 uomini ogni anno, e i tumori della mammella, ancora più frequenti, oltre 1.280 tumori diagnosticati nelle donne della nostra regione. Poi gli altri tumori molto frequenti sono 500 casi nei maschi di tumore del polmone, colon retto, oltre 800 tra maschi e femmine. E complessivamente questi tumori colpiscono specialmente le persone anziane, sono tumori che in parte sono anche prevenibili attraverso i giusti fattori comportamenti e stili di vita. Gli stili di vita che noi consigliamo, gli epidemiologi e i medici consigliano in Friuli Venezia Giulia come nel resto d'Italia sono principalmente l'astensione completa al fumo di sigaretta, che rappresenta la principale causa evitabile di molti tipi di tumore, non solo i tumori al polmone ma anche al cavo orale, all'esofago, al pancreas, molto frequenti anche alcuni tumori femminili. Si raccomanda anche di evitare la sedentarietà e evitare il sovrappeso nelle persone. Muoversi e evitare il sovrappeso riduce anche in questo caso una buona parte di tumori, così come mantenere una dieta sana. Spesso è consigliata una dieta, per semplificare, con almeno 4-5 porzioni di frutta e verdura al giorno e infine di ridurre il più possibile il consumo di alcol. Parliamo ancora di tumori. Il centro di riferimento oncologico di Aviano ha contribuito alla realizzazione di uno studio su come ridurre gli effetti collaterali dei farmaci attraverso l'esame del DNA dei pazienti. personalizzare la terapia in base al DNA per ridurre gli effetti collaterali dei farmaci. Un vasto studio europeo appena concluso, che ha coinvolto 7.000 pazienti in 7 paesi e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet, ha dimostrato la validità clinica della prescrizione di farmaci sulla base delle informazioni genetiche dei pazienti. La scelta del farmaco e la personalizzazione del dosaggio su linee guida internazionali di farmacogenetica possono cioè ridurre in modo significativo gli eventi avversi, che nei paesi OCSE si stima impattino per il 15% della spesa sanitaria. Il CRO di Aviano ha preso parte al progetto, in particolare per gli effetti tossici dei farmaci oncologici. I test genetici diventano quindi imperativi, non solo per la sicurezza delle terapie, ma anche per i risvolti economici legati ai costi sociali degli effetti tossici dei farmaci. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Famosa a livello internazionale per i numerosi ritrovamenti di orso delle caverne, la caverna Pocala a Duino Aurisina fu esplorata per la prima volta nel 1893. A 130 anni da questa data, il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, che conserva migliaia di reperti da questa località, organizza una visita alla cavità con ritrovo alle 10 nel parcheggio del cimitero di Aurisina. Sarà un'occasione per parlare degli studi in corso, di nuove scoperte, di orsi delle caverne e degli uomini di Neanderthal che hanno lasciato tracce del loro passaggio proprio in questa cavità. La visita si concluderà con un intervento intitolato Faccia a faccia con l'uomo di Altamura, a cura di Sergio Dolce, già direttore del Museo di Storia Naturale, a cui abbiamo chiesto una sintesi del suo intervento. Per parlare dei fossili, no, di Neanderthal, abbiamo scelto l'uomo di Altamura per un semplice fatto, perché io personalmente sono stato sul posto, sono sceso nella grotta di La Malunga nel 1998, qualche anno prima era stata fatta questa grandissima scoperta e quindi ho avuto questa incredibile occasione di visitare questa grotta scoperta da poco e di vedere questo eccezionale fossile. In questa grotta si scendeva per un pozzo molto molto stretto, non senza difficoltà, per trovarsi poi in una caverna un po' più comoda e per avventurarsi dopo, diciamo, in una galleria che diventava sempre più bassa e si procedeva a carponi, e in questo modo alla fine proprio della galleria mi sono trovato davanti a questo fossile che stava rannicchiato. È un fossile eccezionale, un fossile che è stato con l'andare del tempo ricoperto da una crescita di concrezioni cristalline, e quindi oltre già al fatto importante che si tratta di una dindinea, è un po' un fossile molto particolare e direi quasi un monumento a questa specie che viveva in passato in Europa. Successivamente questo fossile è stato molto studiato, è stato anche datato e oggi sappiamo con certezza che si tratta di un uomo di Neanderthal che è vissuto ed è caduto in quella grotta circa, con certo margine, circa 150.000 anni fa. Sesta edizione per la cerimonia di premi ambientali dell'Associazione Eugenio Rossmann di Monfalcone, dedicati ai neolaureati. 36 le tesi giunte quest'anno da Italia e dall'estero su temi ambientali, sia in campo naturalistico, sia in architettura, giurisprudenza ed economia, sempre su tematiche ambientali, selezionate da una giuria di docenti universitari. Al primo classificato sarà assegnato un premio di 1.000 euro, al secondo un riconoscimento di 500. A Monfalcone, al Palazzetto Veneto, alle 16. È stata girata in carne nel comprensorio Ravascletto Zoncolan la puntata di oggi della trasmissione del canale televisivo Rai 1 Linea Bianca, condotta da Massimiliano Ossini, che parlerà delle montagne del Friuli Venezia Giulia esplorandone cime e tradizioni. La puntata inizierà a 2780 metri sul livello del mare, in vetta al Monte Coglians, nel complesso delle Alpi Carniche, per poi passare alle testimonianze della storia passata lungo i rifugi sotterranei del presidio difensivo di Torre Moscarda di Paluzzo, per ricordare le portatrici carniche e il loro ruolo cruciale durante i combattimenti della Grande Guerra. Appuntamento su Rai 1 alle 14. Ha in allestimento 50 opere l'esposizione personale di quadri dell'udinese Claudio Mario Feruglio, oggi in inaugurazione. In mostra opere realizzate dal 2007 al 2022 e incentrate sulla poetica del silenzio, particolarmente cara all'artista, in una ricerca che secondo la critica richiama i paesaggi segreti che ognuno si porta dentro, dove la fonte luminosa rimane il cuore di una visione e di una viandanza. L'allestimento sarà accessibile fino al 25 marzo, martedì escluso, a ingresso libero, a Tolmezzo, Palazzo Frisacco, alle 17:30. Passiamo agli spettacoli. Lobgesang, la seconda sinfonia di Felix Mendelssohn, sarà in scena con il soprano Elvira Hasanagic, il mezzo soprano Irma Pavare e il tenore Patrick Reiter, per la direzione di Marco Feruglio. Il componimento è strutturato in una prima parte solo strumentale, animata dalla sensibilità romantica del grande musicista tedesco, e in una seconda con un'estesa sezione vocale biblicamente ispirata, un vero e proprio canto di lode, appunto Lobgesang, come recita il titolo. Appuntamento a Gorizia, al Teatro Verdi, alle 20:45. Giovanna d'Arco, Le donne e la scelta, lo spettacolo che porta in scena la storia di una donna con le sue contraddizioni, le sue paure, la sua passione, la sua vitalità e una fragilità che non cede al rimpianto o all'autocommiserazione, ma rimane insofferente alle autorità che cercano di sopprimere la sua voglia di autoaffermazione e libertà. Lo spettacolo, incluso nella stagione della compagnia Anatema Teatro, sarà diretto da Filippo D'Alessio a Osoppo, al Teatro della Corte, alle 20:45. Si intitola Il marito invisibile, l'ultima commedia del drammaturgo Edoardo Erba, che unisce reale e virtuale. Sul palco, infatti, le attrici Maria Amelia Monti e Marina Massironi recitano senza mai guardarsi, avvolte da uno sfondo completamente blu, mentre sopra di loro appaiono due grandi schermi che le proiettano nelle loro case, intente a raccontarsi le loro vicende, che includono un matrimonio in cui dovrà essere, di cui dovrà essere accertata la veridicità. Ad Artegna, al Nuovo Teatro Monsignor Lavaroni, alle 20:45. Thanks for Vaseline, lo spettacolo teatrale che propone la vicenda del film Thanks, interpretato da Luca Zingaretti e Antonio Folletto, e proiettato nelle sale cinematografiche nel 2019. Sul palco la storia di esseri umani sconfitti, emarginati dal mondo, che prima li ha illusi, sfruttati e poi tragicamente derisi, che diventano vittime e carnefici nella lotta senza tempo per il potere e l'amore, in una continua escursione fra la realtà e l'assurdo, fra il sublime e il banale. A Udine, al Palamostra, alle 20:30. A seguire la compagnia incontrerà il pubblico. Si intitola Amedeo Fusco racconta Frida Kahlo, la conferenza spettacolo che sarà condotta dall'attore, regista e autore già noto per la direzione del laboratorio di teatro dell'Università La Sapienza di Roma. Sul palco le ferite, i dolori, la delusione e la gioia vissute dalla famosa pittrice messicana. L'ingresso sarà libero e solo se lo spettacolo sarà piaciuto lo spettatore, se vorrà, potrà contribuire. A Trieste, al Magazzino 26 di Porto Vecchio, alle 20:30. Gioventù virtuosa è il titolo dell'ultimo concerto della rassegna San Vito Musica, che avrà protagonista l'Accademia d'Archi Arrigoni con la giovanissima violinista Edna Unseld, vincitrice del concorso Piccolo Violino Magico. In programma musiche di Vivaldi, Kreisler, Mendelssohn e Haydn, a San Vito al Tagliamento, all'Auditorium Comunale, alle 20:45. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. L'Udinese partirà nel pomeriggio per Torino, dove domani affronterà il Granata nella prima giornata di ritorno della Serie A. Questa mattina la formazione di Sottile terrà la seduta di rifinitura sui campi dei bruseschi. Basket, per la Serie B la Pontoni Monfalconi ospita il Capo d'Orlando, palla 2 alle 20:30. Nella 2 donne la Delsa Roma a Udine gioca a Villafranca di Verona, inizio alle 20:30, in trasferta anche il Futurosa Trieste a Treviso, inizio alle 19. Pallanuoto, dopo la prevedibile sconfitta contro la capolista Prorecco, Trieste va a caccia di punti nel match di questo pomeriggio contro la Distretti Ecologici Roma, inizio alle 16, ingresso libero e diretta streaming su Vimeo. Nel pomeriggio giocano anche le orchette nella 1 femminile Rapallo, inizio alle 15:30. Per la 2 di pallamano maschile, Trieste ospite del Belluno, inizio alle 21. Sci di fondo, 3 atleti regionali in gara questo pomeriggio a Dobbiaco, nella 10 km a tecnica libera, l'ex biatleta di Forni Avoltri Giuseppe Montello al debutto in una gara di Coppa del Mondo nel fondo, il sappadino Davide Grazia e il fornese Martin Coradazzi. Nella 10 km femminile a tecnica libera la prima a partire sarà la carnica Cristina Pittin, 36esima ieri, il via alle 13. Si gareggia per la Coppa del Mondo anche nella combinata nordica Oberstdorf. Tra gli italiani al via c'è il tarvisiano Raffaele Buzzi, inizio della serie di salti alle 11:45. Seconda giornata di gare ai mondiali di ciclocross in Olanda, Hoogeraide, due friulani oggi in gara, Davide Toneati negli under 23 e Sara Casasola nelle elite, partenza rispettivamente alle 13 e alle 15. Ieri l'Italia si è piazzata quinta nella staffetta squadre, hanno gareggiato Toneati, Asia Zontone e Tommaso Cauferi. 7:46 minuti e 50 secondi inizia la nostra rassegna stampa. Così l'ospedale si allarga. È il titolo di prima pagina del Piccolo di Trieste, che in alto inserisce la fotonotizia della condanna del medico campanile. I richiami in prima pagina, le polemiche in Consiglio regionale per i 112 milioni stanziati a favore dei comuni, il trasloco in largo Pestalozzi delle scuole Spaccini, il ritorno del carnevale carsico e la sconfitta giudiziaria del CLPT, il Comitato dei Lavoratori Portuali, che aveva intentato causa perché escluso dalle contrattazioni. Nelle prime due pagine di cronaca del Piccolo, nelle prime due pagine di cronaca cittadina, chiedo scusa, il Piccolo entra nel dettaglio del progetto di riqualificazione dell'ospedale di Cattinara. La condanna di Campanile compare anche su Repubblica, con il titolo «Sconto di pena al medico che uccise 9 anziani, agì per scopi morali». La diminuzione del 12,5% dei mutui per l'acquisto di immobili causato dall'aumento dei tassi di interesse e l'apertura del Messaggero Veneto, che calcola fino a 3.000 euro in più a famiglia a causa dei rincari. Spazio poi al disegno di legge per l'autonomia differenziata delle regioni, che se approvata potrebbe portare Friuli Venezia Giulia a gestire 23 nuove competenze come i rapporti con l'Unione Europea e la sicurezza del lavoro. Altro titolo, quello sullo scontro tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale sui 112 milioni di stanziamento per le opere in singoli comuni. C'è poi un servizio con la rielezione di William Pezzetta alla segreteria regionale della CGIL. Fotonotizie e capocronaca dell'edizione di Udine sono per la chiusura disposta dai NAS dei carabinieri per lo stabile della Onlus Aedis, che ospita minorenni stranieri a causa del degrado riscontrato. Il Gazzettino apre sul taglio al cuneo fiscale, che porta dai 200 ai 400 euro in più a lavoratore, e poi informa sui 7.000 percettori di reddito di cittadinanza che in regione perderanno questo sostegno a luglio. Il patto dei 25 comuni in vista della capitale europea del 2025, così recita il titolo di prima pagina del Piccolo di Gorizia e Monfalcone. Ampio spazio viene dato alla condanna del medico monfalconese Vincenzo Campanile. C'è anche la piccola fotonotizia riguardante il blocco della strada di Costabona e c'è un richiamo sull'incendio in un'abitazione di Sant'Andrea. Le prime due pagine di cronaca goriziana sono interamente dedicate all'alleanza tra i comuni dell'Isontino in vista dell'appuntamento con la capitale della cultura. Il capocronaca di Monfalcone riguarda gli stanziamenti della regione a favore di opere nel comune, quasi 5 milioni per terme, biblioteca e palasport. La fotonotizia del Messaggero Veneto di Pordenone mostra l'operazione di soccorso a un'anziana residente in centro che aveva la porta di casa bloccata. I pompieri con un'autoscala sono entrati dalla finestra del secondo piano dove era la donna. Capocronaca, l'ammodernamento al CRO di Aviano con interventi come l'acquisto del sistema radiologico telecomandato. Da Ravedis il cantiere da 4 milioni di euro alla diga per la sistemazione delle paratoie che consentirà un maggiore accumulo d'acqua. Da Fontana Fredda la denuncia di una giovane che ha visto l'amica di colore respinta all'ingresso di un locale del posto. Il Gazzettino di Pordenone informa sullo studio al traffico a Borgo Meduna in programma tra 2 settimane per disegnare la viabilità nel quartiere al centro di un ampio progetto di riqualificazione. Spazio poi alle attività della Casa delle Attività di Valle Noncello, dirette ai giovani che non studiano e non lavorano e alle famiglie con anziani colpiti da decadimento cognitivo. 7:50 minuti e 30 secondi, c'è spazio per qualche altro appuntamento odierno. Lo storico Davide Conti condurrà una conferenza sul suo ultimo libro intitolato «Sull'uso pubblico della storia», in cui l'autore parlerà di quello che definisce l'attacco di questi ultimi anni alla disciplina storica da parte di chi è pronto a crearsi un passato di comodo pur di legittimare le proprie visioni del mondo. A Gorizia, al Kinemax, alle 10. Il libro In bicicletta sono libero, viaggio con il Parkinson del friulano Simone Masotti con Max Mauro, sarà presentato a Udine alla libreria Odos in vicolo della Banca alle 17. Il libro Uno, Nessuno, Cento Luca di Luca Stel con Erika Liano, che racconta una vicenda umana segnata da un incidente e dal processo di rinascita, verrà presentato a Udine alla libreria Friuli alle 11. Giornata d'esordio per le 30 opere realizzate dal gruppo artisti triestini Rivel Art, allestite nella mostra collettiva Scorci Triestini a Trieste alla Galleria Rettori Tribio di Piazza Vecchia alle 17. Settima edizione del Carnevale sotto le stelle, sfilata di carri in notturna, quest'anno arricchita da appuntamenti che avranno inizio alle 14:30 in Piazza Marconi e proseguono alle 20 con la sfilata nelle vie del centro. Per gli spettacoli, secondo appuntamento per il ciclo Un cinema per amico, inteso a costruire una comunità amica delle persone con demenza e delle loro famiglie, che proporrà la proiezione del film Mamma Mia, adattamento cinematografico dell'omonimo musical basato sulle musiche del gruppo svedese ABBA, a Trieste, al Cinema Ariston, alle 10.30. La Casa in Tel Canal, nuova versione pop della famosa commedia di Goldoni La Casa Nova, sarà in scena a Sacile al Teatro Ruffo alle 21. E ora alcune anticipazioni sul settimanale, la rubrica di approfondimento della testata giornalistica regionale. Torna il settimanale in questa puntata. Prima del via Sanremo, il Teatro Ariston, scenografie, prove d'orchestra, fiori e persino il Panino Festival. I controlli ad alta tecnologia della Guardia di Finanza al porto di Gioia Tauro. Il Cammino dei Briganti, motore del rilancio del borgo di Sante Marie. Modellismo e trenini a Firenze, uno dei plastici ferroviari più grandi d'Europa. Moussa Jajambè da migrante in barcone a bomber in serie D. In Trentino, sui luoghi della fiction con Alessandro Preziosi, Blackout, vite sospese. Il ritorno dopo la pandemia dei bottari di Portico di Caserta e dei loro ritmi scanditi su bottiettini. Oggi nel settimanale 12.25 Rai 3. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con Biblos. Scopriremo l'originalità creativa di Miela Reina, figura geniale, protagonista degli anni 60 a Trieste, autrice del volume appena pubblicato nel cinquantenario della sua prematura scomparsa dal titolo Storie elisabettiane e altre storie. E poi ancora un libro sulla memoria della Shoah, Ritanna Armeni, nel suo Il Secondo Piano, racconta come un gruppo di suore accolsero nel proprio convento due famiglie di ebrei e un'infermiera nazista. Alle 7.53 minuti e 25 secondi termina la prima edizione odierna del giornale, redatta e condotta da Maria Spezia e Paolo Roncoletti. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, assistenza tecnica in regia di Giampaolo Zucchi e Carlo Morello. Le notizie proseguono sul nostro sito www.rainews.it/tgr/fvg e sui profili social Twitter e Facebook di TGR FVG. Appuntamento alle 12.30 per l'edizione meridiana. A tutti voi grazie per averci seguiti e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.